fanno questo, stanno creando un parco per l'evacuazione. Vi farebbero passare non dall'ingresso della curva, ma sopra la postazione principale, la nostra postazione, la tribuna centrale, e poi farti uscire dall'ingresso, diciamo, vicino a quello stampa. Questa sarebbe la soluzione escogitata che vorrebbero adottare, ma immaginiamo che per evacuare, per convincere, per trascinare poi alla fine. Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dallo studio di Bruxelles un saluto da Annalisa e da Roberto Giava in regia. Buonasera a tutto il pubblico, buonasera. E in collegamento telefonico dovrebbe esserci come sempre Alessandra. Ciao Alessandra. Sì, esatto, Annalisa. Ciao Annalisa, buonasera Roberto e a tutti i nostri amici radioascoltatori. Bene, questa sera, cari radioascoltatori, a Giro di Boa ci occupiamo purtroppo di un'altra pagina nera per lo sport e per il calcio, come avrete intuito dal contributo audio che la regia ha mandato. Ultra serbi hanno scatenato il caos martedì scorso a Genova, prima e dopo l'inizio della partita tra Serbia e Italia, valida per le qualificazioni all'Europeo. Una partita di calcio si è trasformata in una serata di caos, scontri e disordini. L'arbitro è stato costretto a fermare tutto, a rischio erano l'incolumità dei giocatori e del pubblico. Abbiamo rischiato una Eisel numero 2, ha detto il ministro dell'Interno Maroni. Con i nostri ospiti questa sera ricostruiremo quanto è accaduto e cercheremo di fare luce su una follia incomprensibile che ha rischiato di sfociare in qualcosa di ancora più grave. Esatto, Annalisa. Questa sera dunque cercheremo di capire cosa è successo lunedì sera e lo faremo con i nostri ospiti. Due sono già in collegamento con noi. Riccardo, ci sei? Eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera, dunque in collegamento telefonico dall'Italia abbiamo Riccardo Pratesi, giornalista professionista che lavora da anni alla Gazzetta dello Sport, prima come collaboratore alla redazione cartacea e dal 2005 come dipendente per la redazione online. Riccardo si occupa principalmente di calcio e da 2 anni e mezzo segue la nazionale azzurra. Nel 2006 ha vinto il premio Ischia per le nuove tecnologie nella sezione Giovani Testate Online. Riccardo, grazie mille per essere con noi questa sera. Secondo ospite in collegamento è un amico di Giro di Boa, si tratta di Sandro Simone. Sandro, ci sei? Sì, ci sono, buonasera. Buonasera anche a te e soprattutto bentornato. Sandro Simone è giornalista e scrive sul blog bengodi.org, oltre a collaborare con il quotidiano L'Attacco e con la rete televisiva Antenna Sud. Sandro è anche, fra gli altri, autore di numerosi libricini di satira sul calcio. E per finire abbiamo due ospiti in studio che sono Roby Giava, direttore della sezione italiana di Radio Alma, nonché ideatore e conduttore della trasmissione radiofonica Scusa Meri, andata in onda alcuni anni fa per ben 4 stagioni. Roby Giava è anche autore del blog Cloruro di Calcio, l'irritante sintesi della giornata di Serie A, disponibile anche su Facebook e Twitter. Roby, ci sei? Ci sono, grazie per questa cordiale presentazione, Alessandra. E se non ricordo male, in studio dovrebbe esserci anche Maurizio Molinari, giornalista e collaboratore di Radio Alma, con il programma Onde Corte. Maurizio, sei in studio? Ciao Alessandra, quando il calcio chiama io rispondo. Su questo non avevamo dubbi. Dunque, Annalisa, abbiamo un sacco di ospiti, abbiamo un argomento molto scottante, per così dire. Io comincerei subito con Riccardo, visto che Riccardo lunedì sera era a Genova. Riccardo, ci puoi fare una cronaca succinta di quello che era, di quello che è successo e per fortuna di qualcosa che non è successo, a questo punto mi verrebbe da dire. Certo, allora guarda, io ero già a Genova dal lunedì mattina, ero arrivato poi da Coverciano dove la nazionale si era allenata. Mi dicono che già la mattinata del martedì, del giorno della partita, i tifosi serbi giunti a Genova fossero arrivati belli carichi. Ho parlato con un guidatore di un autobus di Genova nella notte, poi poco dopo gli scontri, mi diceva che sul suo pullman che guidava i mezzi pubblici lì a Genova era pieno di serbi che erano ubriachi fradici già la mattina alle 10 di mattina, e così lui aveva visto 2-3 bus pieni, quindi diciamo un 100-150 persone già belle cariche la mattina presto in città. Comunque diciamo che i danni che avevano fatto a Genoa sono stati abbastanza minimi, come ha detto poi Massucci, il rappresentante della sicurezza per del Ministero degli Interni e la nazionale italiana di calcio. Le forze dell'ordine italiane hanno cercato poi di indirizzare soprattutto la parte più temuta del tifo serbo subito verso lo stadio, proprio per evitare che andassero in città a combinare il caos. E quindi arriviamo alla partita, arriviamo diciamo verso le 20, la partita è in programma alle 20:50. Verso le 20 cominciano i primi problemi, perché il settore ospite di Marassi, che ricordiamo è uno stadio che non ha la pista d'atletica, quindi è uno stadio che era ideale per giocare a pallone in assoluto, ed era ancora più ideale per questa partita, perché sulla carta la Serbia, al di là della classifica che è pessima, hanno 4 punti dopo 3 partite, era considerato l'avversario più ostico dal punto di vista tecnico, è una squadra con molto talento, quindi il pubblico di casa vicino ai giocatori poteva essere un'arma in più. In questo caso si è rivelato invece un'arma a doppio taglio, nel senso che questo uomo in nero, questo Ivan, poco dopo le 20 si è preso il proscenio, perché è salito sulla gabbia, e a Marassi c'è una gabbia, è proprio il settore ospite, quello riservato alla tifoseria che arriva da lontano a giocare la partita a Genova, al Ferraris, ha una gabbia come soffitto, diciamo. Lui ha bucato, che aveva un tronchetto, è riuscito a bucarla, ha scavalcato la gabbia, è salito in cima e da lì ha tenuto in scacco un po' tutti, perché ovviamente lanciavano fumogeni e bengala sia nella curva nord, quella occupata normalmente da tifosi del Genoa, che era limitrofa accanto al settore Oppi, e sia naturalmente in campo, perché la distanza al campo era veramente ridotta. A quel punto ci si è gradualmente cominciati a preoccupare, sperando sempre però che in prossimità del fischio inizio la situazione si ricomponesse. Gli Stuart hanno creato un cordone tra la curva e il settore ospite, però ci si è ben presto resi conto che i serbi erano venuti qui a Genova, in Italia, per far giocare la partita. Ancora di più avevano voglia proprio di entrare in campo. Infatti poi le autorità sono prese il merito di aver comunque evitato che questi sconfinassero e addirittura arrivassero dai giocatori. Hanno provato a far giocare la partita, comunque è durata 6 minuti e poi l'arbitro ha fatto quello che era onestamente inevitabile che facesse, cioè l'ha chiusa lì. Non c'erano le condizioni per far giocare la partita, perché onestamente era troppo pericoloso sia per l'incolumità dei giocatori sia per l'incolumità degli spettatori italiani, perché mandare la polizia nel settore ospite lì sarebbe stato avviare una carneficina, rischiando veramente un macello negegli scontri tra le forze dell'ordine e i tifosi serbi. Far giocare la partita con tutta la scorta di bengala e di fumogeni e di bombe carta che si erano portati dietro e che erano entrate nello stadio sarebbe significato probabilmente che ci sarebbe scappato il morto. Riccardo, qual è il bilancio in termini di arresti e feriti? Che gli arresti, che sono continuati poi durante questi 2 giorni, si sia sui 20 arresti, ma al di là di quello il problema è che gli scontri sono continuati dopo, perché naturalmente far defluire un settore ospite occupato dai serbi, che erano poco meno di 2000, quindi tanti, ma veramente tanti, era ovviamente difficilissimo, tra l'altro con naturalmente i tifosi lì limitrofi che erano stati bersagliati dai lanci, quindi erano anche ovviamente incattiviti e tutto, quindi poco dopo la mezzanotte, direi mezzanotte e 10, è cominciato il caos fuori sul piazzale antistante dello stadio del Ferraris, e lì c'è stata una carica durissima della polizia, durissima, c'erano le forze dell'ordine coordinate, perché i serbi, i tifosi serbi nel piazzale dove avevano i loro pullman hanno forzato un cancello cartello e teso quasi un agguato alle forze dell'ordine, ai finanzieri che erano lì davanti, perché da dietro sono arrivati tutti i tifosi serbi, erano lì semi nascosti quando sono entrati i primi rappresentanti delle forze dell'ordine e li hanno caricati. E allora le forze dell'ordine hanno risposto in massa con polizia, carabinieri e tutto, li hanno ricacciati indietro, con uno scontro anche cruento, e li hanno rimandati ai loro pullman. E però sono stati 10 minuti di violenza pesante, ecco. Poi c'è stata la caccia all'uomo nero, questo Ivan Bogdanov, come dopo abbiamo imparato a sapere, abbiamo saputo, e niente, l'hanno trovato, io ero presente quando l'hanno trovato, noi come Gazzetta.it abbiamo girato un video, avevo una telecamerina con me, perché praticamente questo era il grande vecchio, era quello che era il capo degli ultra della Stella Rossa, che erano a capo di questa spedizione in Italia e che rappresentava, lui era diciamo quello che manovrava quindi tutto la tifoseria serba dentro il Ferraris, al di là del fatto che era stato lui poi a issarsi sulla rete del settore ospite. Come hanno fatto a ribeccarlo? A lui aveva dei tatuaggi in bella mostra e sono stati naturalmente individuati dalle telecamere. A quel punto ha fatto scendere dai pullman, una volta che si era stabilita la calma, tutti i tifosi serbi, li hanno fatti spogliare, togliersi la maglietta, e hanno confrontato le foto che avevano dalle immagini delle telecamere con quella del corpo dei vari tifosi serbi, per vedere se combaciavano i tatuaggi, per capire dove era questo uomo nero, per trovarlo. Non i 7-8 pullman quelli dei tifosi più accesi sono stati così vivi sezionati uno a uno e sono stati lasciati ripartire fino all'ultimo. 2:30 di notte, parliamo, inizia la perquisizione dell'ultimo pullman, 50 tifosi serbi di scendere, in fila indiana e orizzontale, si tolgono la maglietta, anche qui non ci siamo, i tatuaggi non corrispondono. E allora il colpo di scena arriva alle 2:40 circa, la polizia apre il vano bagagli e dentro trovano l'uomo nero, Ivan, e lo acciuffano e lo arrestano. Riccardo, ti vorrei chiedere una cosa. Questi ultraserbi hanno messo in atto una contestazione fatta di minacce e di tentativi di aggressione contro la propria squadra. Se non sbaglio, già prima della partita, davanti all'albergo che ospitava la squadra, ci sono stati momenti difficili per i giocatori della nazionale serba. Ecco, perché questo comportamento degli ultra nei confronti della propria squadra? Ti vorrei chiedere che cosa c'è dietro, secondo te? Ma c'è dietro un disagio che è anche sociale, che è anche politico, prima ancora che calcistico. Insomma, gli ultraserbi sono purtroppo già noti per le loro intemperanze, che avevano degli antecedenti, dei precedenti preoccupanti anche prima di Genova. Un paio di motivi possono essere stati scatenati più di altri. Loro erano reduci da una sconfitta assolutamente sorprendente, ma inopinata, proprio nel girone, nel gruppo di qualificazione all'Europeo del 2012 in casa contro l'Estonia, che onestamente non è una squadra, è nemmeno comparabile alla Serbia, quindi erano furiosi con l'ultima performance. Ma al di là di questo, nel Milino ha finito il portiere titolare, perché il portiere titolare è reo, tra virgolette, di essere passato passato da giocatore della Stella Rossa a poi al Partizan, e Stella Rossa di Belgrado e Partizan Belgrado sono le grandi rivali, no? Come se un giocatore fosse passato dal Milan all'Inter. E in più c'è da dire che il presidente della Federcalcio serba ha un passato da dirigente del Partizan, e come accennavo prima, i capi di questi ultraserbi che sono arrivati a Genova, l'uomo nero in primis, sono esponenti del tifo della Seven Azzurra, della Stella Rossa appunto, per cui era un altro capo di imputazione che si faceva. Poi sicuramente volevano una grossa cassa di risonanza, l'attenzione di tutto il mondo calcistico e non, e poi probabilmente, parliamoci chiaro, ci saranno anche delle implicazioni di tipo politico, perché comunque questi sono gruppi di destra, di estrema destra, e magari probabilmente anche un atto di forza nei confronti del governo che c'è adesso, che potrebbe avere implicazioni che vanno al di là quella che può essere l'integrazione dell'Unione Europea della Serbia, però ecco, bisogna poi vedere, questo è uno spingersi più in là. Le prime motivazioni sono, diciamo, di ambito più calcistico. Un altro invece, il fatto che può aver comportato questo tipo di episodio e va messo in considerazione con i visti, cioè prima del dicembre 2009 per uscire dalla Serbia ci voleva il visto. Ora è chiaro che 2000 visti per questa partita era ben difficile che poi il governo gliele potesse concedere. Allora un'invasione del genere fino a poco tempo fa non sarebbe stata possibile, mentre adesso, da quando questa normativa è passata per cui si può uscire, viaggiare serenamente fuori dalla Serbia e andare in altri paesi, era la prima vera grande trasferta, perché sì, la Serbia ha partecipato al mondiale, io ero giunto in Sudafrica nel 2010, ma onestamente era un viaggio un pochettino lungo per portare tutta una tifoseria fuori, invece l'Italia onestamente era piuttosto vicino a portata di mano, e quindi questo tipo di invasione della tifoseria è chiaro che potrebbe essere poi stata facilitata da questo tipo di norme. Ecco, può essere una spiegazione perché è successo adesso e non è successo un anno fa o non è successo un'altra partita, non tanto l'Italia ma le circostanze che hanno portato a far sì che succedesse a Genova. Io avrei una domanda per Sandro, volevo chiedere che cosa ne pensi dell'aggressione che l'Italia l'Italia ha subito, e secondo te gli stadi italiani, cioè lo stadio in questo caso quello di Marassi, era ben preparato e l'Italia avrebbe dovuto adeguare le sue misure di sicurezza tenendo conto ovviamente di quello che Riccardo ci ha appena detto della questione dei visti, ma soprattutto tenendo in considerazione che i serbi sono ben conosciuti, in quanto che se si guarda un pochino la loro storia, la storia degli hooligans, senz'altro misure adeguate andavano prese. Sandro, cosa ne pensi? Ma sicuramente qualcosa non ha funzionato nella comunicazione. Ancora oggi mi pare che, nonostante da una parte ci siano state le scuse ufficiali del governo serbo, poi ci si continua a rimpallare, credo che l'Italia ha cercato di tirare fuori questo documento in cui la Serbia diceva che tutto sommato non sarebbero stati tanti tifosi e che sarebbero stati abbastanza tranquilli, per cui sicuramente c'è stato un problema di comunicazione legato a questo. Se arrivano 2000 persone e se ne aspettano tanti di meno e non ci si aspetta, significa che c'è un numero di poliziotti che la città, bene o male, ormai in Italia grossi scontri come questi non ne vediamo da tanto tempo, semplicemente perché nelle partite molto a rischio si prendono i provvedimenti che a volte significa impedire ai tifosi ospiti di raggiungere la propria squadra, o avere un numero adeguato di poliziotti, avere una forma di filtraggio magari migliore per evitare che questi qui possano entrare in campo con i fumogeni, addirittura con le pinze, con le cesoie. Per cui sicuramente sotto questo aspetto si poteva gestire meglio la cosa, sicuramente. L'impressione però è che questo sia anche un caso particolare, appunto come già ha spiegato bene Riccardo. Non è una partita di campionato dove con molta più difficoltà si riesce a gestire le tifoserie, si riesce anche a combinare sanzioni, perché poi diventa tutto più complicato in queste situazioni. E comunque la mia impressione è che in generale noi siamo in una trasmissione sportiva per cui parliamo di sport, però ci sia un grosso problema politico dietro, cioè per molti di questi tifosi la partita è anche un momento in cui hanno l'attenzione del mondo su di loro. Se il mio obiettivo fosse quello di farmi vedere, di mostrare degli striscioni magari offensivi che potessero essere visti da più persone possibili, quello lì è un mondo straordinario. Avessero fatto una manifestazione interna lì in Serbia, l'avrebbero vista soltanto nel loro paese, invece così immagino che questi filmati abbiano fatto il giro del mondo. Riccardo, di calcio giocato ieri martedì sera ce n'è stato ben poco, dunque, ma come vedi tu il cammino dell'Italia verso l'Euro 2012? È ancora molto lungo? Ma guarda, penso che intanto vediamo quelle che saranno le sanzioni che saranno applicate nei confronti della Serbia, che si vada, diciamo, la sanzione minima, che è 3-0 per l'Italia, probabilmente ha eventuali possibili partite da disputare a porte chiuse, o addirittura terremoto totale sarebbe che la Serbia venisse squalificata. Non credo si arriverà a tanto, ma non è neanche da escludere tutto questo. Credo che l'Italia, pur non essendo l'Italia anche solo del 2006, nazionale campione del mondo, però comunque in questo girone abbia iniziato il cammino verso Polonia ed Ucraina e quindi l'Europeo del 2012 con il piede giusto, c'è soprattutto un atteggiamento molto più sereno all'interno della nazionale e di riflesso su come la nazionale si pone verso l'esterno, esterno inteso come giornalisti, media ed addetti ai lavori ed inteso come tifosi, cioè la vera rivoluzione di Prandelli, al di là di quella tecnica, cioè della fiducia a Cassano, a Balotelli quando tornerà dopo l'infortunio, è che c'è una maggiore collaborazione o comunque una maggiore apertura, trasparenza nei confronti dei media e forse un'attenzione maggiore rispetto alle esigenze dei tifosi. Il credo di Lippi, giusto o sbagliato che fosse, perché comunque non dimentichiamoci che gli ha portato poi un successo mondiale che non è una cosa da poco, però era quello di creare un gruppo unitissimo e il concetto era noi contro il mondo, un modo per motivare questi ragazzi per farli tirare fuori il 100% vedendo fuori quasi tra virgolette solo nemici, no? In modo da creare un grandissimo spirito di corpo. Adesso il contesto da questo punto di vista è profondamente cambiato. Io invece, per quanto riguarda il discorso Genova, volevo solo dire una cosa, un'ultima cosa. Io credo che il problema sia stato fondamentalmente, come si diceva prima, proprio che del fatto della prevenzione, cioè al di là di chi ha torto e chi ha ragione, perché le responsabilità si sono rimpallate tra Federazione Italiana e Federazione Serba, tra governo italiano, governo serbo, è ben difficile poi distinguere chi ha torto, chi ha ragione, bisognerebbe saperne tanto di più, però comunque i controlli andavano fatti meglio allo stadio, perché io posso assicurare che quando alle 3 di notte è stato preso l'uomo nero, nel suo pullman sono stati ritrovati circa 300 bengala, fumogeni e compagnia bella, più un paio, due, tre bombe carta. È evidente che se uno entra dentro con tutta sta roba qua, la partita è a rischio, perché è chiaro che non potevano, cioè è ben difficile bloccare 2000 persone e prenderle una a uno, però magari cercando di isolare i più facinorosi e facendoli presentare allo stadio un po' di ore prima, ecco, una perquisizione un pochino, non dico capillare, ma perlomeno un pochino più dettagliata, un pochino più completa, questo probabilmente è stato l'unico errore, ecco, che si può imputare all'organizzazione. Riccardo, c'è una domanda qui da studio da parte di Roberto Giava. Sì, Riccardo, una domanda. L'Italia, se le cose vanno come credo che vadano, dovrà prima o poi andare a giocarsela a Belgrado. Cosa pensi che succede in quel momento lì? È una gran bella domanda. Io ci sarò, per cui spero che la risposta sia clamorosa. Purtroppo, ripeto, andiamo al discorso di prima, ci ripetiamo. Cioè, lì l'episodio di violenza, contestualizzate le partite di calcio, sono già accaduti in passato. Se non sbaglio. Scusa se mi interrompo, appunto. È morto un ragazzo francese che è ammazzato, diciamo, un gruppo di ultras del Partizan a Belgrado. Mi sembra del Tolosa, c'è cioè un tifoso del Tolosa. Poi ricordiamoci che parte di questi tifoseria qua era responsabile dei disordini che ci sono stati a Belgrado l'altro giorno per la sfilata Gay Parade, no? Qui insomma è chiaro che là ha fatto meno notizia quello che è successo. Beh, sono abituati da noi, insomma, è una tifoseria molto più scafata questa. Purtroppo sì, dico. Perché da noi, come si diceva prima, bisogna il tifoso del Genoa che era morto in occasione di una partita di calcio, cioè poi purtroppo abbiamo vissuto un episodio analogo, qui si fa riferimento al gennaio 95 a Genoa Milan, però ecco, da noi questo tipo di approccio fortunatamente era abbastanza superato e noi abbiamo avuto dei grossi problemi allo stadio, parliamo di tessera del tifoso, per cui stiamo cercando di limitare questi problemi. Io a Belgrado sinceramente spero che la Serbia, dopo questo precedente, e parlo prima ancora di federazione, parlo proprio di governo, cioè si faccia un si dia una dimostrazione di grande civiltà. Me lo aspetto e credo che sia onestamente doveroso dopo questo precedente. E voglio dire, credo ci siano anche tutti i crismi perché questo accada, insomma. Però poi cioè, è stata sconfitta in Inghilterra gli hooligans, ma purtroppo in molti altri stati è molto molto peggio che da noi, dove comunque naturalmente, come sapete, tutti i giorni, tutte le domeniche, anzi weekend ormai, comunque qualche episodio purtroppo siamo costretti a registrarlo come cronaca. Riccardo, mi dicono dalla regia che ci dovrebbe essere una pausa musicale, dunque non ci resta che ringraziarti per il tuo interessante contributo, farti un in bocca al lupo per il tuo lavoro e ovviamente teniamo le dita incrociate per l'eventuale trasferta a Belgrado. Speriamo che vada tutto bene e vi ringrazio, grazie a voi, alla prossima. Alla prossima. Grazie Riccardo, un saluto dallo studio. Ascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Come avete ascoltato, cari radioascoltatori, questa sera ci stiamo occupando di un'altra brutta pagina per lo sport e per il calcio. Stiamo commentando con i nostri ospiti, ne parlavamo prima con il nostro ospite, Riccardo Pratesi, della Gazzetta dello Sport. Abbiamo commentato aspetti legati allo sport, ma cari radioascoltatori sanno, Giro di Boa è un programma di dibattito, approfondimento, un programma sui fatti, sull'attualità italiana ed europea, quindi sicuramente Giro di Boa non può prescindere da ovviamente tenere in considerazione anche l'aspetto politico della vicenda. Il 25 ottobre prossimo i ministri degli esteri dell'Unione Europea si riuniranno a Lussemburgo e dovrebbero anche esprimersi sulla domanda di ammissione della Serbia all'Europa, di un paese in cui il movimento antieuropeista è tutt'altro che marginale. Lo stesso vice premier serbo ha confermato che, secondo fonti di intelligence, l'estrema destra starebbe cercando di ostacolare il processo di integrazione nell'Unione Europea, un processo, ricordiamo, che è stato lungo e difficile e che si è sostanzialmente sbloccato soltanto negli ultimi tempi. Quindi ricordiamo ancora, il 25 ottobre prossimo in Lussemburgo i ministri degli esteri dei 27 paesi membri dell'Unione Europea si dovranno esprimere sulla domanda di ammissione della Serbia all'Unione Europea. Chi sono e da dove arrivano gli ultra che hanno bloccato la partita? Sì, grazie Annalisa. L'autore è Maurizio Stefanini, il libro si chiama Ultra, uscito nel 2009 per Boro l'editore. Che abbiano bloccato una partita è il minimo. A suo tempo furono proprio gli ultra serbi a scatenare la guerra che dissolse la Jugoslavia. Era il 1950, quando si giocava una partita Hajduk Spalato Crvena Zvezda, per noi italiani Stella Rossa, ultima giornata del campionato jugoslavo. Il derby era fra due squadre studentesche, l'Hajduk storica e l'altra invece, la Stella Rossa, appena costituita dal regime comunista. Un gruppo di 113 studenti si organizza. Dopo il primo tempo in vantaggio per i belgradesi, gli spallatini pareggiano e segnano anche il gol della vittoria all'87esimo. Ma la Stella Rossa protesta e vari dirigenti e membri della Torcida saranno poi messi in carcere. Nel 1986 si formalizzano i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria, squadra della polizia formata dal regime comunista ma divenuta poi simbolo del nazionalismo croato, e tre anni dopo si formano i Delice della Stella Rossa, un termine che significa eroi, contrapposti ai quali ci sono i Zingari o i Becchini del Partizan Belgrado, squadra dell'esercito questa volta, contro la quale il tifo per la Stella Rossa assume un sottofondo nazionalista grande serbo. Si arriva ai fatti che molti conoscono del 13 maggio del 1990. È in programma la partita Dinamo Zagabria-Stella Rossa. La domenica precedente si era votato per le prime elezioni pluraliste croate, vinte a mani basse da Tudjman. Gli ultra belgradesi sono 3.000, partono per Zagabria con alla loro testa il 38enne Zeliko Raznatovic, detto Arkan, un pluripregiudicato protetto dai servizi jugoslavi. Il bilancio è pesantissimo, centinaia fra feriti, arrestati e decine le auto e i tram devastati. Pochi giorni dopo il Parlamento croato annuncia una nuova costituzione e ad agosto i serbi di Croazia indicano un referendum che proclama la loro autonomia. A settembre, a Spalato, i tifosi di Hajduk e Partizan inaugurano l'ultimo campionato della Jugoslavia unita affrontandosi a colpi di spranga. Sempre a settembre, i serbi di Croazia proclameranno la loro autonomia, mentre nel dicembre dello stesso anno, nel 90, il Parlamento di Zagabria approva quella costituzione per cui i serbi si sentiranno, da quel momento in poi, minoranza nazionale. E infine, il 23 dicembre del 90, un referendum proclama anche l'indipendenza slovena. Nel 91, a giugno, verrà proclamata l'indipendenza croata. È qui che inizia la guerra d'indipendenza croata, che poi durerà fino al 95 e provocherà oltre 20.000 morti, come sappiamo, poi affiancata da tante altre guerre con centinaia e migliaia di morti. Arkan si metterà in tutto questo ad arruolare proprio fra gli eroi e i becchini, la sua milizia paramilitare cosiddetta delle Tigri, che riciclerà i cori da stadio come inni di guerra ed è armata fino ai denti, perfino carri armati ed elicotteri. Gli ultra armati di Arkan si renderanno colpevoli di atrocità inenarrabili: 400 omicidi a Bijeljina nel 92, 600 a Brčko e 20.000 nella zona di Prijedor, 880 a Sanski Most e 700 a Cerska. Le testimonianze parlano di campi di concentramento, uomini bruciati vivi, fosse comuni riempite con cadaveri di donne e bambini. Ci sono sempre gli uomini di Arkan anche fra gli autori dell'esecuzione di massa a Srebrenica. Traffici di armi, benzina, sigarette, auto rubate lo rendono uomo ricco. Si butterà in politica e il suo partito otterrà 14 seggi al Parlamento di Belgrado. Arriviamo al 2000, Arkan viene assassinato, i mandanti non saranno mai individuati. Al suo funerale parteciperanno oltre 20.000 persone. E alla curva nord dell'Olimpico di Roma, gli ultra della Lazio esporranno uno striscione «Onore alla tigre Arkan». Questo è un estratto del libro «Bello ultra» di Maurizio Stefanini. Dà, a mio modo di vedere, una connotazione profonda, storica, ai fatti che sono successi martedì. Vorrei sentire il vostro parere. A me sembra che, alla luce di questi, sono cose che anch'io ignoravo in effetti, alla luce di questo anche il pentimento di Ivan Bogdanovic, il ciccione mascherato di nero che avrebbe causato tutto quello che è successo martedì allo stadio di Genova, è da rivedere secondo un'altra ottica. Lo stesso infatti Ivan Bogdanovic, mi pare di leggere su un articolo della Gazzetta dello Sport, riporta il quotidiano serbo Plic, che ha aperto uno squarcio sul passato di Bogdanov, ne ha rivelato che nel febbraio 2008 fu lui a guidare l'assalto all'ambasciata degli Stati Uniti a Belgrado per protestare contro l'indipendenza del Kosovo. Quella sera eravamo in diretta e parlavamo di Kosovo, proprio, ti ricordi Annalisa, qui a Giro di Boa. Io diciamo conoscevo un po' questa storia, infatti prima appunto avevo detto che in questa situazione particolare non si trattava soltanto di violenza allo stadio, ma si trattava di un problema politico molto più grande. Aggiungo un'altra cosa, Repubblica.it oggi ha pubblicato parecchie foto fatte durante la partita, diciamo nel prepartita, al di là di questo personaggio appunto che più volte ha fatto il saluto romano, la parte diciamo occupata dai tifosi dei serbi è stata tappezzata di adesivi che i serbi hanno attaccato, in cui si inneggia fascismo, c'era uno striscione credo sul Kosovo che c'era scritto qualcosa tipo il Kosovo è il cuore della Serbia. E poi c'era una serie di simboli diciamo della Serbia, di quelli che dell'ultranazionalismo, che appunto molti di quelli erano poi usati anche durante la guerra. Per cui questo è un caso particolare che va analizzato in una situazione diversa rispetto a quando ci ritroviamo a parlare di violenza negli stati italiani, dove sì, può esserci un problema di frange estremiste, di estrema destra, ma mi pare che il problema in questo caso sia ben diverso. Diventa un problema politico, va affrontato politicamente. Sotto questo aspetto io credo che da una parte si debbano dare sanzioni, ma dall'altra bisogna anche capire se impedire alla Serbia di continuare le qualificazioni o dargli una sanzione durissima, se non è un modo per darla vinta a questi personaggi che magari vogliono boicottare il governo e la possibilità che il governo, che la Serbia venga integrata sempre di più nell'Unione Europea, proprio con questi gesti che porteranno soltanto all'isolamento, e l'isolamento spesso porta poi ad un ulteriore picco del nazionalismo, come abbiamo visto in altre situazioni. Per cui sotto questo aspetto ci vorrà forse, oltre alle decisioni della federazione, alle decisioni delle autorità sportive, anche un accordo con le autorità politiche. Ma io sono d'accordo con quello che dice Sandro. Mi sembra che il problema sia stato piuttosto un problema, diciamo, di politica interna serba, trasportata su uno scenario internazionale, quindi in particolare in Italia, che poi la politica interna abbia a che fare anche con la missione della Serbia all'Unione, con i negoziati per la missione della Serbia all'Unione Europea, è una cosa che sicuramente deve far riflettere le autorità sportive nel comminare sanzioni. Alla fine io penso che, oltre alla sconfitta a tavolino che verrà inevitabile per la Serbia, si cercherà comunque di, anche per non dare adito appunto a ulteriori rivalse da una parte o dall'altra, per non darla magari vinta, come diceva Sandro, agli ultra serbi, o per non far scoppiare ulteriori polemiche anche in Serbia, probabilmente si opterà per qualche partita a porte chiuse. Sono d'accordo infatti su questo, cioè il calcio dovrebbe fare la sua parte, ma non è il mondo del calcio. Non è al mondo del calcio che si chiede di risolvere un problema di questa portata, che affonda le radici davvero in una storia che ha poco a che vedere con il calcio e con i prossimi europei. Il calcio ne è toccato perché, come ha detto anche Riccardo Pratesi in precedenza, il calcio è vetrina, il calcio è milioni di telespettatori, e decine di migliaia di tifosi che assistono, per cui uno stadio è forse oggi l'unico contenitore di massa umana dove puoi trovare assembrati in uno spazio di un'ora e 30 minuti decine di migliaia di persone. Ci sono pochi esempi dove ciò può succedere, ci possono essere mostre, fiere, eccetera, però lo stadio ha una valenza maggiore. I delitti che vengono compiuti durante esibizioni sportive, sappiamo anche ciò che era successo alle Olimpiadi di Monaco, ha sempre una eco formidabile, che sia Olimpiadi, che siano mondiale di calcio, mondiale di hockey sul ghiaccio, non ha importanza. Però il calcio ne è toccato per questa sua proprietà di vetrina mondiale, ma non deve fare passi che possano urtare ancor di più questo spirito nazionalista profondo, radicato, serbo. E credo che se l'UEFA deciderà di escludere la Serbia d'ora in poi dalle competizioni per un certo numero di anni, mi sembra un provvedimento grave e soprattutto non attinente alla realtà. Il problema è che comunque una volta identificati i colpevoli, quindi questo Ivan e Ivan il Terribile e gli altri che si sono resi colpevoli di questi fatti, e puniti i colpevoli diffide, per esempio da magari revoche di visti, o non so, poi se vogliono andare allo stadio in Serbia saranno fatti loro del governo serbo, ma comunque con l'impedimento di andare a partite internazionali. E io penso che appunto puniti i colpevoli, quello che ci vuole è un approccio soft, perché comunque la nazionale serba è stata la prima a essere danneggiata, anche solo a livello sportivo proprio, cioè è stata la prima a essere danneggiata da un atteggiamento del genere di alcuni suoi tifosi. Io sentivo oggi alla radio che gli avvocati di questo Ivan vorrebbero chiedere il patteggiamento, e siccome la pena per i reati che si prospettano, che sono resistenza pubblico ufficiale, e comunque reati piuttosto contro contro il patrimonio, contro cose piuttosto che contro persone, oltre alla resistenza al pubblico ufficiale, lui rischia meno di 2 anni, e per i 2 anni possono chiedere il patteggiamento e l'espulsione immediata dall'Italia. Credo che sia questo quello che si profili. Maroni aveva chiesto l'incriminazione per tentata strage, che sinceramente mi sembra un po' una provocazione. Non so. Secondo te, Maurizio, c'è stato davvero il rischio di una ISL 2? No, secondo. Allora, io non ho visto la diretta della partita, perché fra parentesi ero a vedere un'altra partita molto più tranquilla, con un'atmosfera molto più gioiosa, che era Belgio Austria qui allo stadio a Bruxelles. Però la sensazione che, cioè, ISL forse sarebbe potuto essere quello che mi ha colpito nel risentire poi la telecronaca. Erano gli incitamenti dei telecronisti italiani a far entrare polizia nello stadio. Io stavo giusto commentando, facendo lo stesso commento in questo momento. Probabilmente sarebbe stata la cosa più sbagliata da fare. Ecco, se fosse entrata la polizia, sì, forse si sarebbe veramente rischiato. Qualcuno può avergli detto che queste cose non si dicono in TV. Infatti, poi alla fine i commentatori, i cronisti di Rai 1 hanno affermato, l'ho seguita integralmente la diretta, hanno affermato che bene ha fatto la polizia, su ordine della questura, della prefettura, a non cercare lo scontro armato. ISL fu un'altra cosa, però ISL ci fu un cedimento anche del strutturale di parte delle gradinate, fu davvero un'altra cosa. ISL poi era uno stadio vecchio, insomma, però ecco, a ISL il problema fu anche che c'erano veramente pochi poliziotti, non era stato fatto un cordone di steward, diciamo, le tifoserie erano praticamente a contatto, erano divise da quel cancello che poi, insomma. Bene. Credo che ci sia stato un problema, sicuramente un problema tecnico. Ci scusiamo con i nostri radioascoltatori e sicuramente ringraziamo Sandro per il suo interessante contributo, un amico di Giro di Boa. Gli auguriamo buon lavoro e siamo sicuri che lo riavremo presto ai nostri microfoni. Dobbiamo ora per concludere, chiudere. Volevo solo riallacciarmi a quello che era stato Roby Giava ha letto prima in diretta, che martedì sera in realtà ci è trattato molto poco di sport e probabilmente di qualcosa d'altro. Il calcio da loro non è stato considerato come solamente come uno specchio, come Roberto Giava diceva, ma bensì come un megafono. Un megafono che ha dato amplificazione a quelli che sono i loro problemi interni. Infatti, come prima Roberto ha citato, la partita del maggio del 90 è stata la scintilla che ha dato fuoco alla guerra jugoslava. E l'unica cosa che volevo ricordare prima di concludere è che durante la serata è stato anche citato il Kosovo. Infatti ricordiamo che durante la serata di martedì a Genova la bandiera albanese è stata sventolata e poi bruciata, perché giustamente i serbi considerano il Kosovo quale parte integrante della Serbia. Dunque, questo per concludere, che si è trattato ben poco di sport, eccetera. Annalisa, hai altro da dire? No, dobbiamo credo veramente chiudere, perché come sapete, cari radioascoltatori, va in onda Onde Corte, la trasmissione curata da Maurizio Molinari, che è stato nostro ospite questa sera. Quindi Alessandro, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, quindi Riccardo Pratesi, Sandro Simone, Roberto Giave e Maurizio Molinari, questi ultimi dallo studio, e non ci resta che quindi che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori per la settimana prossima.